Avete ricevuto anche voi tanti begli auguri per il nuovo anno appena cominciato? Uno di questi diceva così: ridi, balla, perdona, esterna le tue emozioni, fai una passeggiata tra la natura, leggi un libro, canta sotto la doccia, telefona a qualcuno che senti poco, ama, amati, permettiti di essere felice. Tutte cose bellissime quando le leggiamo e che ci danno un senso di novità, di cambiamento, una voglia di iniziare il nuovo anno veramente con il piede giusto. Una lista di bei propositi. Che cosa vuoi di più dalla vita per il nuovo anno che sta per iniziare? Però non so se è capitato anche a te di iniziare l'anno con propositi veramente forti, importanti, profondi, per poi ritrovarti magari dopo un paio di settimane punto a capo, come se nulla fosse. Quei bei propositi espressi con entusiasmo all'inizio dell'anno sembrano come dissolti nel nulla. Ecco perché oggi vorrei provare a proporti un approccio diverso ai propositi di inizio anno. Intendiamoci, se per te vanno benissimo i vecchi propositi, anzi il vecchio modo di fare propositi, qualcosa del tipo: quest'anno voglio essere più buono, come quando esprimavamo così il nostro desiderio di miglioramento da bambini. Se per te va benissimo un approccio di questo tipo, ci mancherebbe altro. Beato te, fortunato te, e continua così. Secondo quella che è la mia esperienza, limitata per carità, esprimere un proposito alla vecchia maniera, chiamiamola così, ha alcune criticità, alcuni problemi. Ne ho individuati almeno due, vediamoli insieme. Primo problema: spesso quando iniziamo un nuovo percorso, un nuovo periodo, ci diamo troppi propositi, per cui dopo un po' potremmo trovarci a pensare di aver messo effettivamente troppa carne al fuoco. Se prendiamo ad esempio quella lista che vi ho letto prima, è certo che tutti quando la leggiamo pensiamo: ah, come mi piacerebbe essere così. Ma un conto è la speranza di diventare un certo modo, un conto è la concretezza del quotidiano con il quale ci dobbiamo trovare a fare i conti. E allora forse cos'è meglio? Secondo me è meglio, nella mia esperienza, non darsi troppi propositi, ma partire con pochi chiari obiettivi precisi. Ancora meglio, partire soltanto con un proposito alla volta. Secondo problema: spesso quando formuliamo un proposito rimaniamo troppo sul vago, siamo troppo astratti. Ritornando sempre alla lista di prima, alcuni di quei propositi erano molto concreti. Fai una telefonata a qualcuno, leggi un libro, fai una passeggiata nella natura. Ecco, questi sono propositi concreti. Altri invece sono troppo astratti, difficili da concretizzare, difficili anche da visualizzare. Quando tu ti dici: devo amare di più gli altri, devo essere più buono, devo amarmi di più, devo dare più tempo a me stesso. Ok, ma nel concreto, nello specifico, come realizzi tutto questo? Quindi ama di più. Ok, ma qual è la persona che devi amare di più? In quale modo puoi amarla di più? Stai parlando dei tuoi figli? Stai parlando del tuo partner? Oppure della tua famiglia di origine? In quale modo puoi dedicare più tempo a loro? Puoi dimostrare tramite gesti concreti l'amore che provi per loro? Ecco, secondo me è molto importante passare dal proposito astratto, come può essere l'amore universale, al proposito molto concreto: voglio impegnarmi di più per curare quella singola relazione con quella singola persona in quel singolo aspetto che sento magari essere un pochino zoppicante. Quindi non tanti propositi, ma un singolo proposito. Non propositi, desideri astratti, universali, ma desideri e propositi molto molto concreti. Quindi trasformare quel proposito molto astratto in una cosa molto concreta da fare. Da fare, anche questo nella mia limitatissima esperienza, ne sono convinto, è però molto importante. Un qualcosa da fare, non un qualcosa da non fare. Perché molto spesso invece pensiamo: non dovrei più fare quella cosa lì, non dovrei più dire quella cosa lì. ma se invece lo formuliamo in positivo, forse sarà anche più facile renderci conto dei progressi, renderci conto dei passi avanti che abbiamo fatto in una cosa effettiva che vogliamo migliorare, piuttosto che in una cosa che vogliamo soltanto togliere. E poi dobbiamo semplicemente iniziare a farla quella cosa, farla oggi, farla domani, farla dopodomani e l'altro domani ancora, concretamente, ogni giorno, perché come dice un mio caro amico, non esistono i buoni propositi, esistono soltanto le buone azioni. Quindi come fare perché quella singola azione concreta che hai deciso di fare diventi veramente qualcosa di effettivo, che porti un cambiamento, un miglioramento nella tua vita? Ecco, questo credo che sia il punto fondamentale. Credo che dobbiamo imparare, dobbiamo esercitarci ad autocontrollarci nel proposito, nell'impegno che ci siamo dati. È troppo facile esprimere un proposito senza avere un metodo molto semplice, molto pratico per capire se quel proposito l'abbiamo messo in pratica oppure no. E per fare questo credo che possano essere sufficienti, ma anche necessarie, due cose, di cui la seconda, secondo me, è una vera bomba. Prima cosa, scrivi la cosa che hai deciso di fare su un foglietto e tienila attaccata da qualche parte, che sia sempre lì davanti a te, che ti ricordi qual è il tuo impegno, qual è la tua direzione. Attaccala con una calamita sul frigo, attaccala allo schermo, mettila come sfondo sul tuo smartphone o sul tuo computer. Insomma, e trova un modo per avere sempre sotto gli occhi quella frase, quell'azione, quel desiderio che vuoi mettere in pratica concretamente. E infine ecco ciò che nella mia esperienza ha fatto veramente la differenza. Metti una X sul calendario ogni giorno che hai fatto quella singola azione concreta. Da questo punto di vista voglio raccontarti la mia piccola esperienza. Qualche anno fa ho avuto un'illuminazione, mi sono reso conto che leggevo pochissimo e ho deciso quindi che questo aspetto della mia vita doveva cambiare. Mi sono dato questo semplice proposito: voglio leggere per 20 minuti al giorno. Per essere più precisi, ho pensato di spalmare il mio obiettivo su 3 mesi, su 90 giorni. Quindi in 90 giorni devo leggere per 90 volte per 20 minuti di seguito, oppure per 180 volte per 10 minuti di seguito. E ho iniziato però a tenere traccia di questo. Attraverso questo semplice gesto, da quell'anno riesco a leggere dai 30 ai 40 libri all'anno. Dirai, i libri li hai letti perché ti sei preso l'impegno con te stesso di farlo e poi l'hai mantenuto. Sì e no. Per me quello che veramente ha fatto la differenza è stato l'iniziare a tenere traccia di quello che stavo facendo. Nel mio caso specifico l'ho fatto attraverso un'app, se vuoi ti lascio il link in descrizione, ma non è quello il punto. Quello che ha fatto la differenza è stato tenere traccia. Puoi farlo con l'app, puoi farlo semplicemente mettendo una X sul tuo calendario. In certi giorni leggo di più e in altri leggo di meno. In certi periodi è più facile dedicargli tempo e in altri diventa quasi impossibile. Ma quello che fa la differenza è nel tempo, nel periodo, nel mio caso, di 3 mesi, vedere come sta andando l'andamento di questo proposito in modo concreto, secondo quel vecchio proverbio che tutto ciò che è misurabile è anche migliorabile. Mettere una semplice X ogni volta che faccio quella singola azione non soltanto mi motiva, ma mi aiuta anche a tenere vivo l'impegno, il proposito che mi sono dato. Ecco quindi il mio augurio di buon anno, molto molto semplice. A qualcuno apparirà forse spoetizzante. A mio parere è semplicemente molto concreto ed efficace. Primo, decidi l'aspetto in cui vuoi migliorare nella tua vita in questo anno. Secondo, definisci questo miglioramento tramite un'azione molto concreta e precisa. Terzo, tieni traccia di ogni singola volta che porterai a termine quella singola azione precisa che avrai deciso di fare, e sono sicuro che per te sarà un anno veramente speciale in questo impegno, in questo proposito molto concreto di miglioramento interiore, spirituale, relazionale che ti sarai preso. Nel prossimo video cercheremo di scendere ancora un po' più nel concreto, soprattutto vedendo alcuni esempi pratici per trasformare la nostra vita, il nostro anno, perché sia un anno migliore e soprattutto dal punto di vista delle relazioni, perché forse è quello l'ambito in cui è più difficile prendersi un proposito concreto e trasformarlo in un'azione concreta. Insomma, proveremo a vedere insieme qualche esempio e poi naturalmente la fantasia di ognuno potrà trovarne mille altri. Quindi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti subito al canale per non perdere le notifiche dei prossimi video che verranno inseriti e attiva anche la campanella. Lascia un mi piace se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. E ancora buon anno a tutti!